Dicembre in India è un mese bellissimo. Quel caldo che t'appiccica i vestiti ai tropici, che non ti fa respirare, quei 50 gradi d'estate sono finiti. È finito anche l'umido del monsone, la stagione dei monsoni, sono finiti i 30 gradi ai primi di dicembre, anche ai tropici. Ti può capitare alla sera di sentire quel brivido lungo la schiena, freddo, bellissimo. Ti amo. Sposiamoci. In India dicembre è il mese dei matrimoni. Però prima bisogna consultare gli aruspici, l'oroscopo, individuare il giorno più fausto. Nel 1984 il giorno migliore per sposarsi in India fu la notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre. Per questo succede a volte che nella stessa notte, nello stesso giorno, ci sono tanti matrimoni, anche 3 o 4 nella stessa strada. Decine nella stessa città, quartieri ricchi, quartieri poveri, ci si sposa, festa. A dire il vero il matrimonio, insomma, incomincia almeno 3 giorni prima. Ci sono i preparativi che sono complicati, è un rituale ancora organizzato con moltissima cura, la preparazione della sposa, però poi il giorno cruciale è l'ultimo. Il giorno in cui la sposa arriva su un cavallo bianco, i due giovani che a volte ancora non si conoscono, i matrimoni combinati non sono finiti. No, continuano. E poi il cibo. Madonna, quanto cibo! Un oltraggio alla miseria. In India. Bhopal, sul tropico del cancro, ha 1 milione di abitanti. È stata città bellissima. A 1000 metri d'altezza, ventilata, le acque scendono da 2 laghi verso la valle del fiume Narmada, fiume sacro come il Gange. Bhopal, 1 milione di abitanti tutti cablati. Nel senso che c'è un palo della luce e un groviglio di fili che ci arrivano. Io credo che uno paga la bolletta e gli altri gli danno qualcosa, insomma, penso che sia organizzata così. Città dove ci sono una maggioranza di musulmani, una fortissima componente indù e anche una comunità cristiana. E non c'è mai stato conflitto religioso, etnico. Ora è cambiato, ma per secoli Bhopal è stata retta da una famiglia che passava il potere da una generazione all'altra di spose, di madri, da madre in figlia. Per questo è anche diventata per tradizione forse città di poeti e di rose, città ospitale che accoglie i profughi come i poeti, i contadini dell'Orissa, venuti per costruire la ferrovia, poi rimasti lì, che ci torni a fare a casa, terra di monsoni e cicloni. Stiamo lì, sulla Spianata Nera, nell'Oria Basti, terra che ha accolto anche i forestieri, gli inglesi, venuti a portare la civiltà, yes, punti di vista. Dopo gli inglesi sono arrivati i russi a un certo punto, sì, Bhopal è sul tropico del cancro come Cuba, per un po' hanno provato a fermarsi. Il socialismo in India è stata una tentazione. Poi hanno scoperto che i rubli non danno la felicità. Questo è assodato. Sul fatto che la diano i dollari c'è ancora da discutere. Comunque, dopo la partenza dei russi, non è stata la bandiera Stars and Stripes ad arrivare a Bhopal, ma una bandiera con una losanga rossa e blu, le insegne della Union Carbide. Roba dell'altro secolo la Union Carbide, del Novecento. Viene dalla Virginia, ha fabbricato il gas per i palloni aerostatici, per i dirigibili, ha fabbricato le pastiglie di carbone per le maschere antigas nella prima guerra mondiale. Nella seconda ha partecipato alla realizzazione della bomba atomica. Dopo la guerra la Union Carbide è diventata uno dei colossi della chimica mondiale. Insomma, bottiglie di plastica, liquido antigelo, pile elettriche, silicone per le tette e poi diamanti in PVC e spray contro ogni tipo di zanzara. C'è solo il DDT dopo la guerra. Però il DDT non fa male solo alle zanzare, ma anche a chi lo respira. Troviamo qualcosa che faccia meno male del DDT. Chi vince la gara fa un sacco di soldi. La Union Carbide arriva prima. 7-7 si chiama il prodotto che 3 giovani chimici inventano nel 57. Sevin, il nome commerciale. Il Sevin non fa male. Si potrebbe anche mangiare, dicono. si può usare su un sacco di vegetali, fa fuori un sacco di parassiti, escluso l'uomo, quindi è perfetto. Come spesso accade, il prodotto finale non fa male, però nella fase intermedia, per arrivare alla produzione del Sevin, bisogna passare attraverso sostanze più difficili da maneggiare, cioè fosgene, fatto reagire in presenza di cloro e un altro gas che si chiama monometilammina, fino ad arrivare a un gas che chiamano MIC, metilisocianato, isocianato di metile in italiano. Il MIC deve essere testato, lo provano su cavie, i risultati sono straordinari. Non serve ingerirlo, ne basta inalare un soffio. Il MIC è assolutamente micidiale, blocca i polmoni, brucia i pigmenti, rende ciechi all'istante il MIC. I risultati dei test sulle cavie furono così seri che la Union Carbide decise di non pubblicarli su nessuna rivista scientifica. Ha un brutto carattere questa sostanza, reagisce con l'acqua, con qualsiasi tipo di impurità metallica o comunque di sporco, per cui va tenuto isolato a 0 gradi, dentro serbatoi che abbiano delle camicie che lo isolino dall'ambiente circostante. La cosa migliore in assoluto è far sì che la sostanza venga prodotta e trasformata immediatamente nel prodotto finale, si chiama ciclo continuo. È così che funzionano le fabbriche, le grandi produzioni di antiparassitari, almeno in America, a ciclo continuo, senza immagazzinare isocianato di metile. A Bhopal la Union Carbide è arrivata già nel 62, sull'onda della rivoluzione verde, sì, di questo grande progetto per tirar fuori il terzo mondo dalla sua miseria, dalla sua arretratezza, dalla sua fame, dal sottosviluppo, per trasformare un mondo agricolo medievale in un moderno universo di milioni di farmers. La Union Carbide è una multinazionale perché sa guardare avanti. L'India è un mercato enorme, interessante, nuovissimo. Bisogna convincere questi contadini, sull'onda di questi programmi internazionali, a occuparsi dei campi in un modo completamente nuovo, finché un giorno arrivi qualcuno che possa dire ai figli: guarda, qui una volta facevamo la fame. Bisogna mettere giù grano, mais, riso, basta miglio. Ma mais, grano, riso esigono acqua, coltivazioni ed esigono antiparassitari, perché anche i parassiti sono raddoppiati. Ecco la soluzione. Bisogna convincere questi contadini a comprare un litro di Sevin, se ci sono 500 milioni di contadini, per produrre almeno 5.000 tonnellate all'anno di Sevin, che sono quel che serve per giustificare questa fabbrica, basta convincere il 10%, 50 milioni di contadini a comprare ciascuno un litro di Sevin e poi a dare su ogni piantina una spruzzata di Sevin, una per ogni piantina del campo. In questo modo l'obiettivo del fatturato in un anno sarà di 50 milioni di litri di Sevin. Un sogno, trasformare tutto questo nel granaio dell'Asia. Il progetto esecutivo è pronto nel 1972, 3 anni ci sono voluti. Rispetto a quello originale ci sono delle modifiche, per ragione di budget sono state tagliate una parte degli impianti di sicurezza previsti come standard nelle fabbriche della Union Carbide. La Union Carbide non ha ritenuto necessario informare i suoi interlocutori indiani del pericolo derivante da questo arsenale chimico dentro una città. Ma sarà sicura come una fabbrica di cioccolata, fonte ufficio studi Union Carbide. Il progetto, ma niente ma. Pensa agli aeroporti di New York, ce ne sono 3. Decollano 6 aerei in ogni minuto. New York è in mezzo ai grattacieli, gli aeroporti sono in mezzo ai grattacieli. A rigor di logica dovrebbero scontrarsi tra di loro, scontrarsi contro i grattacieli continuamente, e invece gli aeroporti di New York sono i più sicuri al mondo. Così sarà per la fabbrica. È America, terra priva di dubbi. E dal punto di vista degli abitanti di Bhopal, il nuovo vicino di casa è il benvenuto. Uno, per decidere come sta, deve sempre tener conto di come stava prima. Voglio dire, c'è una possibilità di lavoro concretissima per costruire la fabbrica, ci sono stati un po' di muratori impegnati, adesso una parte di questi diventeranno operai. I laureati e i diplomati potranno essere assunti senza andare ad emigrare all'estero. Voglio dire, c'è lavoro per tanti, non per tutti, ma insomma per tanti. La Union Carbide è gentile con i dipendenti, con le famiglie, è ospitale, regala dolci in occasione delle feste comandate. Nel 1980 la fabbrica è pronta a funzionare. Nel frattempo la rivoluzione verde è fallita. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti. Non è vero che si sta meglio con queste sementi. Non è vero che i pozzi artesiani hanno portato l'acqua. Si arrugginiscono, senza gasolio, perché le nuove colture hanno richiesto troppa acqua, perché le falde si stanno abbassando, perché non è vero che automaticamente, trasformando questa gente in consumatori, la loro vita sia migliorata. Sviluppo e benessere non sono sinonimi e qualcuno sta cominciando ad accorgersene. Il 4 maggio 1980, il neo presidente della Union Carbide, Warren Anderson, in persona, viene a Bhopal, taglia il nastro, preme il bottone che avvia la produzione del primo litro di Sevin indiano. È buonissimo, è meglio del nostro. No, grazie, non ho sete. Comunque, cin cin. 5.000 tonnellate all'anno, questo è l'obiettivo della fabbrica. Il primo anno di produzione raggiungono la quota di 2.700 tonnellate. Insomma, siamo su una buona strada. Adesso bisogna convincere o altrettanti contadini a comprarlo, oppure potremmo fare un 3x2, qualche cosa, insomma, per incentivare la produzione. Trovate qualcosa che alletti i contadini, che li convinca a mettere questo. 3 grani di Sevin per ogni piantina, che sarà mai? Nel 1981 c'è il primo incidente alla fabbrica di Bhopal. Mohammed Ashraf è un operaio capoturno al Fosgene. 2 giorni prima di Natale deve sostituire una flangia difettosa fra 2 tubazioni. Ha la maschera, ma mentre fa l'operazione 2 gocce di Fosgene gli schizzano sulla maglia pulita. Lui non si scompone. Ce la lavo io così non ho problemi con mia moglie. Va a lavarsi la maglietta, ma per lavarla si toglie la maschera, che saranno mai 2 gocce. Fa un errore fondamentale. Respira, gli viene. E il Fosgene non uccide subito. Prima ti dà il tempo di essere felice. Va a casa, in preda all'euforia, e dice alla famiglia: andiamo a comprare una casa. Papà, adesso andiamo a comprare una casa. Li trascina fuori in strada e lì crolla. Crolla a terra e inizia a vomitare. Non smette più. Muore soffocato dai suoi stessi succhi polmonari. L'anno successivo le vendite di Sevin scendono del 12%. 2.300 tonnellate. Che è stato? È la siccità, i monsoni. Quello che non fa il secco fa la pioggia. Certo che questo paese proprio non vuole organizzarsi per rispettare le previsioni e i fatturati. Niente da fare. E allora la sede centrale dalla Virginia taglia le spese della filiale indiana. Prima di tutto 300 manovali se ne devono andare a casa. Poi si chiude il centro di formazione. Poi 200 operai specializzati, avevano iniziato 3 anni prima con 1.000 operai, sono già ridotti alla metà, facciamo sciopero. Guarda, non è il caso, vedi mai che ci mandino a casa pure noi, vanno a casa lo stesso. Nell'estate dell'83 si decide la sospensione di tutta la produzione, le previsioni non sono buone per niente. Restano di scorta 63 tonnellate di isocianato di metile stivate nei 3 serbatoi che stanno sottoterra. Nell'autunno dell'83 vengono disattivati gli impianti di sicurezza. Siccome la produzione è sospesa, non ha senso di spendere denaro per mantenere in esercizio gli impianti di sicurezza. Nello stesso mese viene tolta l'alimentazione al raffreddamento dei tre serbatoi che stanno sottoterra, sotto il sarcofago di cemento. Se tu togli la spina a un frigorifero, quello che ci sta dentro va a male. Se quello è un gas che dovrebbe stare a 0 gradi e tu lo lasci all'arbitrio della temperatura dell'estate e dell'autunno indiano, ma tu sei un criminale. Per risparmiare ancora qualche cosa sulle spese di gestione, viene spenta la fiamma pilota del bruciatore che serve a bruciare il gas eventualmente in fuga dagli impianti. La torre in cui si trova il bruciatore è spenta. La Union Carbide ha cominciato la dismissione. La fabbrica non rende, è costata un sacco di soldi, è in perdita di milioni di dollari, però siccome è seminuova si può rivendere. Ma sì, ne mettiamo un pezzo in Brasile, un pezzo in Indonesia. Spaccandola a pezzi, vendendola sul mercato, qualcosa si recupera. Il 26 ottobre 1984 la bella fabbrica chiude definitivamente. Possibile che nessuno si ricordi che là sottoterra, 6 metri sottoterra, in quei sarcofaghi senza corrente, ci sono 62 tonnellate di isocianato di metile? Chi dovrebbe ricordarsene? Se a Bhopal ormai non c'è più un ingegnere, non c'è più un operaio specializzato, se non c'è più nessuno. È un anno nero per l'India, un paese dove le disgrazie, le catastrofi devono essere scritte, perché se non sono scritte non possono neanche capitare. 4 giorni dopo la chiusura definitiva della fabbrica, il 31 ottobre viene assassinata Indira Gandhi. Le 2 guardie del corpo la uccidono. Dovevano vendicare le guardie il massacro dei Sikh nel tempio d'oro d'Amritsar, più di 600 persone uccise. Il giorno dopo 3.000 Sikh vengono linciati nelle strade dell'India sotto la pioggia del monsone. Poi la pioggia finisce e cambia il clima. Viene quasi freddo. Bellissimo. Ti amo. Sposiamoci. Il 2 dicembre Bhopal è in festa. Profuma di rose. Quella sera, anche se la fabbrica è chiusa, bisogna fare pulizie. Periodicamente bisogna pulire le tubazioni. Sotto il sarcofago di cemento, dentro le 3 cisterne, che portano i numeri 611, 612, 619, c'è ancora l'isocianato di metile. 42 tonnellate sono dentro la cisterna 611, piena. 20 tonnellate nella cisterna 612, mezza piena. 1 tonnellata solamente nella cisterna 619. Chi fa il lavoro? Non ci sono più operai a Bhopal. La Union Carbide ha mandato dei suoi dipendenti di una fabbrica di pile indiane. A fare il lavoro quella sera è l'operaio Mohan Lal Verma. Non sa che cosa c'è nelle vasche, neanche il suo superiore lo sa. Anche lui viene dalla fabbrica di pile. Ma le istruzioni sono: dovete isolare le sezioni dei tubi, immettere l'acqua, lavare fuori tutto. Solo che quella sera, la notte tra il 2 e il 3 dicembre, una delle saracinesche si è talmente incrostata di sporco che l'acqua non passa in nessun modo. Continuano ad aumentare la potenza. Passa? No! Niente, sono lunghe le tubazioni. Da laggiù in fondo stanno pompando acqua. Da qui dovrebbe uscire acqua dalla saracinesca. Continua a non uscire. Aumenta la pressione. Quanta acqua hai buttato? Ne ho buttata che basta. Dovrebbe essere strapiena la tubazione. È possibile che non esca? E dove va l'acqua che è entrata nella tubazione? Mohan Lal Verma non ha isolato perfettamente la sezione come forse era scritto nelle istruzioni. O comunque lui non le ha capite. Sta di fatto che la sezione non è stata isolata e l'acqua, che dovrebbe scorrere solo in quel tratto di tubo, non trovando via d'uscita da quella parte, se n'è andata da un'altra parte. Ha trovato la porta aperta per infilarsi in una cisterna, una delle 3 seppellite dal cemento sottoterra. Quale delle 3? Siccome siamo in India, l'acqua non va nella cisterna che ha una sola tonnellata di isocianato. Siccome siamo in India, l'acqua non va nella cisterna mezza vuota. L'acqua entra nella cisterna che ha 42 tonnellate di isocianato di metile, che è molto sensibile all'acqua, alle impurità, allo sporco. Il gas si riscalda. C'è un odore di cavolo lesso insopportabile. Ma chi ha fatto da mangiare? No, io no, io no, io no. A qualsiasi chimico, anche a un operaio esperto di quelle produzioni, quell'odore avrebbe detto subito qualcosa. È l'isocianato di metile che si scalda, ma loro non lo sanno, vanno in cerca per la fabbrica di capire da dove viene l'odore, da sottoterra viene l'odore, ma non se ne rendono conto. E quando tutta la fabbrica è piena, quando l'odore di isocianato di metile, di cavolo lesso, è entrato in ogni dove, è troppo tardi. La pressione nel serbatoio è diventata fortissima, intollerabile, e l'acqua, che ha trascinato le incrostazioni dei tubi, reagendo con l'isocianato, lo fa esplodere. Il cemento tiene, ma il gas raggiunge una pressione incontenibile e allora cerca una via di fuga. L'unica via di fuga sono proprio le tubazioni che dovrebbero portare alla torre dove il bruciatore con la fiamma dovrebbe bruciare il gas che eventualmente si sia prodotto per qualche reazione incontrollata. Ma la fiamma è spenta e i tubi hanno le saracinesche bloccate, così il gas preme, preme, preme, finché a un certo punto la pressione fa saltare le valvole e un geyser si alza a centinaia di metri sopra la fabbrica. Nello stesso istante suona la sirena. La nuvola pesa 2,5 volte l'aria. E da che parte andrà? Di là, verso i quartieri in riva al lago, dove ci sono i giardini di rose di Bhopal, o dall'altra parte, verso la stazione, verso la spianata nera, il quartiere dell'Oria Basti? Dopo un breve conciliabolo tra le autorità divine locali, un vento leggero e misericordioso risparmia l'affronto del cavolo lesso ai giardini di Bhopal. E la nuvola scende dall'altra parte, verso la stazione, verso la spianata nera, verso l'Oria Basti. 3 gas formano la nuvola. Dentro c'è isocianato di metile, cianuro, fosgene e monometilammina con un gusto di ammoniaca. Così, a seconda della distanza dalla fabbrica, l'odore che arriva è diverso, odore di cavolo lesso per le baracche appena di là del muro e fino alla stazione, odore di ammoniaca e odore di mandorle a mare. Il risultato però non cambia perché l'isocianato di metile brucia i polmoni, il fosgene ti fa soffocare in mezzo alle tue secrezioni, il cianuro ordina al cervello basta, sei stanco, non respirare più. Quasi nessuno reagisce alla sirena. Non sai cosa fare, non hai istruzioni, non sai cosa significa. Decine di migliaia di persone sono lì dove si abbatte la nuvola. Mezza città viene colpita. Vengono colpite le feste, vengono colpite le persone nel sonno. Qualcuno comincia ad avvisare, persone escono, si formano capannelli che corrono per le strade. Qualcuno comincia ad abbattersi. Alla stazione un treno appena arrivato viene colpito dalla nuvola. Le persone iniziano a cadere, tutti vomitano in silenzio. È come se il volume, la manopola del suono della città fosse stata improvvisamente abbassata, portata a zero. Non c'è tuono, non c'è eco, non c'è frastuono, non c'è crepitio di fiamme, né acqua che corre, né vento che soffia. Solo questa nuvola muta, come nelle camere a gas, quando si affievolivano le voci delle persone. Si trascina al pronto soccorso una marea umana di gente disperata, ma i sintomi sono diversi, i medici non riescono a capire che sta succedendo. Uno vomita, quell'altro è paralizzato, quell'altro ancora ha un altro tipo di sintomo. Non sanno che pesci pigliare. Nel pronto soccorso i medici si mettono in contatto con i loro colleghi a Bombay. Qualcuno riesce a contattare i tecnici americani della Union Carbide. Spiegano la situazione, ma i colleghi americani non possono dare informazioni sulla composizione della nube tossica, non hanno autorizzazione, non hanno istruzioni in merito. Qui la gente sta morendo. Ci dispiace, non possiamo trasmettere le informazioni, non sono in nostro possesso. Qui la gente sta morendo, c'è gente che sta morendo in... non capiamo che cosa gli è capitato, che cosa c'è nella nuvola, che cosa dobbiamo fare. Provate a respirare meno possibile. Quante sono le vittime di Bhopal? Come si fa a censire le vittime di un paese che non ha anagrafe? Se la gente che muore, muore in un quartiere pieno di baracche. Se ci sono gli indù che vengono cremati a centinaia, a migliaia sulle pire il giorno dopo per ragioni sanitarie, se quelli che si presume siano i musulmani devono essere interrati nelle fosse comuni, come si fa? Si fanno fotografie, polaroid, centinaia di piccole polaroid vengono messe su dei grandi pannelli di legno con le foto di tutte le persone decedute nella speranza che qualcuno le riconosca, gli possa dare un nome. Quanti muoiono quella notte a Bhopal? 1000 è la cifra ufficiale fornita dalle autorità indiane, subito. È rassicurante. Data la scala dell'India, non si può nemmeno considerare una catastrofe. Oggi si stima che 8.000 persone morirono nei primi 2 giorni a Bhopal. La Union Carbide non ha mai fornito indicazioni tossicologiche utili a comprendere la terapia migliore per le persone colpite dalla nube tossica del 2 dicembre 1984. Warren Anderson, presidente della Union Carbide, l'uomo che ha inaugurato lo stabilimento di Bhopal, il giorno dopo il disastro vola a Bombay. Tutti in Virginia lo sconsigliano, ma lui dice no, voglio mettermi a disposizione. Atterra e viene immediatamente arrestato. Non era mai successo. Non era mai capitato, mai, mai, mai nel terzo mondo qualcuno si era permesso di fare una cosa del genere. Effettivamente in 3 ore la cosa si risolve. Anderson viene liberato dietro pagamento di una cauzione di 250.000 rupie, $500. Prende l'aereo, ma prima di lasciare l'India fa una dichiarazione importante. Tornerò in India non appena la giustizia me lo chiederà. L'aereo di Mr. Anderson che decolla si incrocia con l'aereo degli avvocati americani che arrivano a Bhopal a raccogliere le procure di tutti questi malati. Inutile. La giustizia americana si dichiara incompetente per ragioni territoriali. Quindi la trattativa si sposta direttamente con il governo del Madhya Pradesh. Dagli iniziali $3.300 milioni, patteggiando, si arriva a un indennizzo di $470 milioni, 420 dei quali saranno pagati dalle assicurazioni. Alla notizia dell'avvenuto accordo, le azioni della Union Carbide in borsa salgono di 2 punti. È probabile che alla fine di tutto in questa vicenda Union Carbide ci abbia guadagnato. La bella fabbrica è ancora lì, coi tubi arrugginiti. La dismissione si è interrotta. Nessuno è più andato a togliere quel che c'era. Non si vedono i segni dell'esplosione. Il sarcofago di cemento copre ancora le 3 cisterne sottoterra. I tubi corrono e il terreno non è mai stato bonificato per mancato accordo tra i successori della Union Carbide, che è Dow Chemical, e le autorità indiane. Centinaia di persone a Bhopal ricorrono giornalmente alle cure mediche. Si calcola che probabilmente altre 12.000 persone sono morte successivamente al 1984 per le conseguenze di quanto accaduto quella notte. Ah, il denaro della Union Carbide è sicuramente finito nelle tasche sbagliate. Nessuno dei danneggiati, nessuno dei familiari delle vittime, ad oggi, è mai stato indennizzato. Mohan Lal Verma, l'operaio che allagò il tubo senza isolare il serbatoio, è stato licenziato dalla Union Carbide e lo ritiene responsabile dei danni. Il tribunale indiano però lo ha assolto perché la manutenzione era sospesa da 6 mesi, perché un uomo che proveniva da un'altra fabbrica non poteva essere in grado di valutare le conseguenze del suo comportamento. Lal Verma adesso lavora per l'azienda delle foreste dello stato del Madhya Pradesh. Ma perderà il posto, perché lungo la valle del fiume Narmada sono cominciate grandi opere pubbliche, 30 grandi dighe, 135 medie e 1500 piccole dighe cambieranno la faccia dello stato del Madhya Pradesh. Dopo la rivoluzione verde facciamo la rivoluzione blu. Secondo Arundhati Roy, la brava scrittrice indiana, le grandi dighe sono per lo sviluppo di una nazione quello che le bombe nucleari sono per il suo arsenale militare. Armi di distruzione di massa. Warren Anderson vive su un'isola dove un militante di Greenpeace è riuscito anche a fotografarlo. Ma non è così difficile. L'isola si chiama Manhattan. La magistratura indiana vuol processarlo con l'accusa di omicidio. Anderson rischia 20 anni, ma non rischia l'estradizione. Anderson, you want Osama, give us Anderson. You want Osama, give us Anderson. You want Osama, give us Anderson. You want Osama, give us Anderson. Volete Osama, dateci Anderson. Così gridano i cartelli silenziosi delle donne in manifestazione a Bhopal. Per loro è un terrorista. In mezzo a queste donne, lo scorso dicembre, c'era una giovane di 20 anni. Si chiama Gas Devi. È nata la notte fra il 2 e 3 dicembre 1984 a Bhopal, nella Spianata Nera. Gas Devi significa Dea del gas. Si scrive CH3N uguale C uguale 0. Si legge MIC. Si legge DAO. DAO Chemical. MIC. Questi sono i nomi. Raccontare storie che hanno a che fare con la chimica mi mette in una difficoltà micidiale, la difficoltà di tradurre le formule in parole, rispettando sia chi conosce le formule, sia chi non sa leggere le formule e ha bisogno di capire di che cosa si tratta. È terrificante semplificare, è terrificante moralmente. È terrificante perché costringe a delle sintesi che sono ingiuste, ma indispensabili. Questo è l'equilibrio difficile di storie complesse, come quando ho raccontato di Bhopal in 30 minuti, così come quando ho raccontato la storia del petrolchimico in 3 ore. Cosa hanno in comune la storia del petrolchimico e di Bhopal oggi? Dow Chemical, per esempio, proprietaria attuale degli stabilimenti di Porto Marghera, erede da Union Carbide, anche dello stabilimento di Bhopal. Io non ho provato a fare altri paralleli, ogni storia sta per sé. Non si vogliono evocare scenari apocalittici a tutti i costi. Però la lezione di Bhopal è la lezione di uno stabilimento abbandonato, in cui le cose non sono state finite. La lezione di una bonifica non compiuta, che crea le premesse attraverso l'incuria, attraverso la sottovalutazione sistematica del rischio di una apocalisse quotidiana dentro una città. Chissà se tutto questo è soltanto un rischio del passato, letteratura scientifica, o se non sia anche e ancora necessariamente oggi una necessità di non dare a nessuno una delega in bianco circa il calcolo dei rischi da correre, situazione per situazione.